Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Vi faccio vedere un video di una iniziativa, una festa fatta una settimana fa nel centro storico di Napoli. Ragazzi che ballano, che si divertono. Dopo questa festa noi abbiamo registrato 30 positivi fra le ragazze e i ragazzi che avevano partecipato a quell'evento senza nessuna protezione. Quando abbiamo deciso di fare l'ordinanza per limitare le feste, anche private, gli eventi con più di 20 persone, lo abbiamo fatto perché se abbiamo centinaia di queste iniziative irresponsabili, è chiaro che il problema diventa grave. Allora dobbiamo capirci bene. Noi dobbiamo tornare a comportamenti rigorosi come a febbraio, marzo, aprile. Certo è che quello che si augura il presidente del Consiglio regionale della Campania, De Luca, riguardo le feste dei ragazzi a Napoli, al momento è una misura ristretta alla Campania. Domani sapremo bene, nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, cosa sarà detto nello specifico rispetto alle abitudini giovanili e il rapporto che queste hanno con in generale l'emergenza Covid. Oggi non vorrei tanto parlare di Covid, ma tanto vorrei parlare di giovani. I giovani ritornano nuovamente all'attenzione in quanto elemento trasgressivo registrato dalla società degli adulti che mette a rischio, a repentaglio, la salute dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro parenti. Questa è l'impressione generale che si sente nei discorsi umarellici quando si vede davanti a una scuola i ragazzi che magari all'interno della scuola devono stare a 1,5 metri di distanza, nei banchi monoposto con le mascherine, fuori si ammassano come hanno sempre fatto da quando esiste la scuola pubblica. Lo vediamo quando la sera, soprattutto il sabato sera, girando per le strade delle città, nei luoghi classici della cosiddetta movida, si vede come se nulla fosse cambiato. Questo da un certo punto di vista può giustamente portare a imporre delle regole, ma trovo che sia molto difficile e molto complicato semplicemente dire, enunciare la regola e dare il precetto senza entrare nei meccanismi di contatto e di rapporto che si può avere nella difficoltà di comunicazione intergenerazionale che c'è sempre stata. Dipende dal punto di vista in cui uno la possa vedere. Finché si è ragazzi, adolescenti, giovani uomini, si guarda al mondo degli adulti, il mondo degli anziani come qualcosa di ostile, qualcosa che dovrebbe lasciarci il posto. Quando si comincia a tracimare lentamente nell'altro versante del fiume, si comincia a vedere con un sottile senso di mai confessata invidia la spensieratezza, la sventatezza, l'irruenza, la capacità di poter anche buttarsi con un sorriso dietro le spalle quelle che sono le regole che noi consideriamo fondamentali, essenziali. E in questo momento particolare della nostra evoluzione, perché noi stiamo vivendo un momento molto singolare della nostra evoluzione, abbiamo una consapevolezza del nostro cambiamento. Guardate, non c'è stato mai nella storia moderna un momento in cui noi possiamo fare un confronto anche semplicemente tra decennio e decennio e vedere come radicalmente cambiano i comportamenti, la percezione del nostro prossimo, la percezione anche dei nostri orizzonti sensoriali, quello che vediamo, quello che noi sentiamo, quello che per noi è lo spazio e il tempo, che sono estremamente dilatati oggi. Ma in questo cambiamento, in questa mutazione profonda, proprio antropologica che stiamo vivendo, rimangono alcune costanti legate proprio al difficile rapporto fra giovani e adulti. Oggi ne parla il Corriere della Sera di un episodio che inseccia tutto, tutte le paure possibili e immaginabili, da quelle epiche, da quelle mitologiche, della necessità che hanno i figli di sopraffare i genitori divoratori, fino a quelle delle cronache degli ultimi anni recenti, anni predigitali. Ricordo l'episodio di Pietro Maso e dei suoi tre compagni dell'81 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, dove uccisero i genitori semplicemente perché volevano i soldi per fare una vita migliore, avere più beni di consumo. Nel 2001 Erika e Omar, che uccisero la madre e il fratello, volevano uccidere anche il padre, in provincia di Alessandria, a Novi Ligure, accadde questo. E l'ultimo episodio riguardo a figli, giovani, adolescenti, ragazzi che meditano o progettano l'uccisione non soltanto simbolica, che a volte salutare, ma anche concreta, ai loro genitori, è un fatto di cui parlo oggi appunto Corriere della Sera, caduto, non voglio dire esattamente il punto, non voglio dare elementi di identificazione, nell'Alto Vicentino, dove un quindicenne va dalle forze dell'ordine e dice: guardate, una mia amica sta mettendo a punto su una particolare piattaforma social un piano per uccidere i genitori. È stata aperta un'indagine dalla procura dei minori e in effetti è una ragazzina di ottima famiglia, una famiglia tranquilla, normale, che in effetti stava allucinando questo tentativo di omicidio dei propri genitori, aiutata da un suo compagno. Difficile pensare se è soltanto un gioco di ruolo, se fa parte di quelle oscure ritualità che sono i social, o realmente è una versione digitale dell'esercizio di parricidio organizzato che ho già citato in alcuni episodi. Beh, oggi ho messo molta carne al fuoco, però il tema mi sembra chiaro: l'insondabile bisogno di creare dei ponti fra le generazioni, che soprattutto in momenti particolari e difficili sembrano ancora più invalicabili. Ecco, per aiutarmi in questa difficile analisi, oltre che chi mi ascolta, che può chiamare all'800240024 e dirmi subito a caldo quale impressione l'ha fatto questa mia introduzione, ho però un'amica, una nostra ospite ricorrente, che è Mauro Amanca. Mauro Amanca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, un saluto anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, ricordo che è psicologa clinica e psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ma anche autrice di un libro che è proprio uscito per Mondadori in questi giorni, Leggimi nel pensiero, un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi, dove Mauro Amanca racconta in forma apparentemente romanzata ma molto particolareggiata nei sintomi e nelle modalità probabilmente storiche, lei ha sentito i suoi pazienti, alcune vicende, alcune più o meno estreme, alcune molto simili agli episodi di cronaca che ho citato, di giovani nel difficile rapporto con la contemporaneità, nel rapporto mediato attraverso le protesi elettroniche, hanno delle grosse difficoltà e difficilmente riescono sempre a sondare quali sono i momenti oscuri di questo loro divagare. Prima domanda che ti faccio, Maura, è sull'episodio che è soltanto accennato, oggi lo vedo dal Corriere della Sera, non so se anche in altri giornali, il Bassano del Grappa. Nulla di nuovo sotto il sole comunque, direi. No, adesso lo stanno riprendendo un po' tutti i giornali, perché comunque è un episodio che tocca nel profondo, perché adesso si sta cercando di mettere l'accento un po' sul fatto che fosse i messaggi fossero scambiati tra i ragazzi attraverso una app di messaggistica, attraverso un social, e quindi di nuovo si sta puntando il dito contro il Snapchat, il mi pare che sia sì. L'app Snapchat, che usavano. Sì. Sì, esatto, vabbè, una vale l'altra alla fine. Sì. È quello che non è l'uno è uguale all'altro nei vari funzionamenti. Adesso si sta capendo un po' se ci sono, perché si sta capendo se c'è una pianificazione reale e una pianificazione concreta, perché a volte i ragazzi nella fase adolescenziale, non sto dicendo che sia questo il caso, però dobbiamo anche sottolineare, nella rabbia, nei momenti di quante volte hanno detto frasi completamente fuori luogo, da vorrei che morissero o vorrei che sparissero. Quindi ci sono dei momenti anche in cui degli adolescenti possono dire delle cose inappropriate, come anche mi uccido, mi ammazzo, e poi non c'è l'intenzione. O c'è invece un'intenzione concreta, reale, e allora lì c'è un problema molto più marcato e non c'entra assolutamente niente il digitale, anzi quello è semplicemente un mezzo che hanno utilizzato per scambiarsi e per parlare. Perché quello che dobbiamo capire oggi è che quello è una protesi della loro identità, come vediamo che lasciano i messaggi, che ci sono ragazzi che si sono suicidati in diretta, ragazzi che hanno compiuto tutta una serie di atti con il loro pubblico, perché purtroppo questa è la modalità con cui si relazionano ed è purtroppo normale per loro utilizzare la rete anche nei casi di distorsione, di patologia o di disturbi di personalità che si dovranno eventualmente approfondire in questo caso. Vediamo se è possibile mettere in collegamento i due momenti che ho suscitato nella mia introduzione, che sembrano contrastanti, però alla fine vanno coincidendo. La capacità, la difficoltà, l'anelito, molte volte la maniera confusa, sbagliata, approssimativa di porsi nei confronti delle generazioni più recenti da parte di quelle più strutturate, più sedimentate nei posti chiave della società. Dando due punti, no? Il punto di vista, il nostro sconcerto, l'umarellico stupore e disprezzo di quando si vedono comportamenti palesemente contro le regole di prudenza. Riferisco all'attuale situazione di disagio, di poca informazione, di paura, di sgomento nei confronti di un possibile contagio, e il fatto che si possano maturare dei comportamenti gravi, pericolosi, autolesionisti e eterolesionisti attraverso i sistemi più attuali di comunicazione, che noi ci immaginiamo, ci illudiamo di conoscere, noi anziani, ma che in realtà abbiamo un modo, un uso, un'accezione totalmente diversa rispetto a quella delle giovani generazioni nell'usarli, nel percepirli, considerarli come una parte della nostra vita. La cosa che dobbiamo fare, e che ho cercato anche di spiegare nel libro, è che dobbiamo entrare nella loro mente se vogliamo veramente capire anche come capirli e come aiutarli, perché loro anche il modo di pensare è completamente diverso, il processo di pensiero, il funzionamento, e se noi non capiamo questo, secondo me continuiamo a mettere le due generazioni una contro l'altra, perché sappiamo tutti che non dovrebbero capire tutta una serie di cose, ma io mi dico sempre, se non ci riusciamo e se i comportamenti non cambiano, c'è un motivo, significa che siamo noi che stiamo sbagliando, perché loro da soli non sono in grado di comprendere le conseguenze di queste azioni, perché quando gli si spiega in maniera concreta devono vederle le cose, non gli basta dire che il virus è pericoloso, non gli basta sapere questo, perché loro non lo vedono il virus. Per esempio, non vedono il pericolo di vita, non vedono i sintomi, e per loro il problema non esiste, perché la testa di un adolescente funziona così. È quello che non vogliamo capire, ma il problema grosso sono anche i più giovani e i più grandi. Lo stesso vale per tutti i comportamenti dei ragazzi. Quando loro anche per esempio partecipano a queste sfide o rimangono incastrati e adescati da manipolatori che li inducono anche a fare gesti che non dovrebbero fare, non vedono le conseguenze in quel momento, non si rendono conto. E quindi noi dobbiamo capire questo e cercare di farglielo vedere, ma non basta dirglielo, non basta una punizione, perché nel momento in cui la loro spinta e anche la trasgressione delle regole, più gli si mettono regole, più vedono qualcosa da infrangere, per cui secondo me c'è proprio un difetto di comunicazione di fondo. Ecco, essendoci un difetto di comunicazione di fondo che affonda le radici, secondo me, in un rapporto antichissimo che possiamo far risalire alla letteratura più remota, all'epica più remota, quello che vorrei capire fra un istante dopo la pausa per la borsa è se gli strumenti comuni di interazione e di condivisione possono in qualche maniera essere usati per facilitare questo tipo di dialogo, non necessariamente volto a fare delle aperture, perché è chiaro e logico che i giovani saranno sempre in rivolta, in contrasto rispetto ai più anziani. Chi questo non si ricorda vuol dire che ha totalmente seppellito e dimenticato il proprio essere giovane. Domando a chi mi ascolta, che è genitore, qual è il solco più profondo che avvertite in questo momento con i vostri ragazzi, con i vostri figli e in generale con le giovani generazioni. A tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Sapete una cosa che odio? Quando gli adulti sono convinti di conoscerci. I luoghi comuni, no? Mati, sempre sul letto, ma esci, fai qualcosa. Qual è il tuo problema? Sempre peggio, eh? Chi ti ha educato non lo so. Ma perché ormai è tutto diverso, i ragazzi sono privi di sentimenti. Vabbè, i giovani d'oggi sono la generazione peggiore, zero emozioni, sempre attaccati col cellulare. Dove andremo a finire? Oh mami, sai spiegare la nomenclatura in chimica? Guarda, io chimica tra tutto proprio zero. Ma non ci fosse una volta in cui sapete rispondere ad una domanda su ciò che studiamo a scuola? .00240024. Questa è Matilde, una ragazza che ha un canale YouTube e prende in giro i genitori che se la prendono con lei, che dicono le stesse cose che dicevano anche i genitori a me negli anni 60-70, quindi non cambia, non è cambiato il rapporto fra giovani e adulti, è cambiato il luogo di interscambio generazionale in cui i ragazzi possono dare questa loro lettura del mondo degli adulti, che non li capisce, che vuole capirli a tutti i costi, che ormai ha un cervello strutturato diversamente e incapace di poter capire, di poter cogliere quello che loro sono, quello che loro fanno, quello che loro vogliono. In molti casi direi, se potessi dire la mia, evitare di voler per forza capire i giovani e cercare per quanto possibile di essere loro di supporto nei momenti più difficili. Ma quali sono secondo voi i momenti difficili? Momenti in cui i ragazzi possono nuovamente aver bisogno di sentirsi una famiglia alle spalle, degli adulti alle spalle. 800240024. Intanto ringrazio Gianfranco Ferronato che mi mette in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi sostengono da Roma. Io rimango sempre a casa in questa home edition di Melog. Sentiamo Michela, qualche ascoltatore. Michela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma sta in mezzo a una bufera, Michela, sento il vento che soffia. No, sono in macchina e non posso fermarmi perché devo raggiungere appunto il posto di lavoro, mi dispiace tantissimo. Sì, però la voce spero, no? Certamente. Allora, l'ascolto. L'ascolto. No, niente, ho ascoltato l'intervento della sua ospite e mi chiedo, se vorrei chiedere alla sua ospite, quanto può aver determinato tutto questo sfacelo il fatto che i genitori oggi preferiscono essere più amici che genitori autorevoli. Io ci assisto tutti i giorni a delle cose assurde, mi capita anche personalmente di vederle, non solo sui social, ma questo non voler assumersi più troppe responsabilità da parte dei genitori, anche se ammetto che essere genitore oggi con i social e internet sia molto più difficile di quello che è stato per i miei. Sì, ma non dica oggi social, Michela, oggi si festeggiano i 10 anni di Instagram, pensi Instagram che è uno dei più recenti degli strumenti diciamo di socializzazione digitale a 10 anni, ormai è un bel pezzo, sono 20 anni che le persone si interfacciano fra di loro attraverso protesi digitali. Non è che il mondo è cambiato e ne abbiamo consapevolezza, come ho detto, però basta di pensare con i nuovi sistemi, le nuove mode, le nuove cose. Anche a me diciamo non guardare la televisione, ad altri diciamo non ascoltare sempre quei tuoi dischi, tutto il giorno ascoltare i dischi, in altri casi erano i libri di avventure, in altri casi era proprio la lettura. C'è sempre stato un supporto all'uscita dalla realtà che i genitori hanno indicato come il grande colpevole della non adeguatezza dei figli ai loro schemi mentali. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo da Salerno, anche io come l'ascoltatrice precedente sono in macchina, non posso fermarmi. Però lei sente molto meglio, ha una macchina meno rigorosa. Quello che volevo dire, diciamo, in base alla mia esperienza di padre e zio, in particolare padre di un bambino di circa 3 anni e mezzo e zio di un ragazzino di 13 che manifesta in effetti qualche problema di socialità, anche un po' di aggressività nei confronti, ecco, dei genitori, e che ritengo un po' dipendente dalla tecnologia e dal digitale. E sinceramente io mi sto cercando di anticipare, nel senso che sto cercando di costruire con mio figlio un livello di comunicazione sin da ora. Sono fiducioso di riuscire a farlo, ovviamente non mi illudo che sia facile. Però, del piccolino sta dicendo, quello di 3 anni? Sì, sì, del piccolino, perché naturalmente vedo intorno a me e sento... Sta investendo sul futuro, sto vedendo. Esatto, ritengo che comunque sia un discorso probabilmente di egoismo spesso dei genitori che... chiedo scusa, mi è partito il navigatore, l'indicazione del navigatore. Dicevo, credo che sia una questione di responsabilità dei genitori che dovrebbero essere forse meno egoisti e cercare, ecco, di dedicare più tempo e tempo migliore, ecco, ai propri figli sin da quando sono piccoli, perché naturalmente insomma ci si trova quello che si semina, ecco. Adriano, glielo dico, ha un figlio di 3 anni, quando avrà un figlio di quasi 30 anni, questo suo senso di colpa per il poco altruismo nei confronti dei figli scemerà in un rimpianto del suo tempo che non si è ben consumato per star dietro ai figli. Sara, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Chiamo da Venezia. Io ho 2 figlie, una di 17 e una di 13 anni. Allora, al di là delle normali differenze fra 2 ragazze, ho noto una indole diversa nella piccola, che è nata nel 2005, e mi sono interrogata, e una delle idee che mi sono fatta è che scuola e genitori sono baluardi novecenteschi, e invece i ragazzi, soprattutto quelli nati dopo il 2005, fanno parte di un altro sistema, una sorta di rivoluzione che abbiamo chiamato digitale, ma nella storia non ce ne sono state tante, quella agricola, quella industriale, quella cognitiva. È come se veramente fossimo al di là di un guado. Allora forse non demonizzare e rendersi conto di avere strumenti che non sono probabilmente adeguati per capirli sarebbe già qualcosa. Lei prima diceva i genitori si sono sempre lamentati di quei sistemi di isolamento dei ragazzi. È vero, anche io ho quasi 50 anni, ma raramente quel sistema di isolamento coincideva con un altro mondo così facile, appagante, con un mondo parallelo proprio. Questo un pochino i social lo fanno, però di sicuro noi non abbiamo gli strumenti e dovremmo dircelo, perché questo ci aiuterebbe invece che demonizzare quel mondo, perché siamo di un altro, prima di una rivoluzione e dopo una rivoluzione, fra 100 anni. Sara ha fatto un intervento che a me piace molto, perché è una riflessione finalmente originale rispetto a quelle che vengono tradizionalmente fatte da almeno 4-5 generazioni. Mi sembra una riflessione adeguata a quello che stiamo vivendo in questo momento. L'ha detto giustamente, oggi c'è un mondo molto più appagante rispetto a, per lei Sara cinquantenne, può essere stato non stare al telefono, stare le ore al telefono, lasciaci libero il telefono perché dobbiamo usarlo noi, o non ascoltare sempre quella musica nelle cuffiette, non lo so, non perdere tempo con quelle stupide riviste, o non stare sempre davanti alla televisione, guarda i libri di scuola invece che altri tipi di libri. Non so bene esattamente, non ricordo quali possono essere stati i motivi di digressione della sua generazione, Poi mi rendo conto che il mondo che abbiamo costruito noi adulti, perché la generazione che ha costruito quello che oggi sono i social è una generazione di persone che ormai ha più di 50 anni, è un mondo appagante, perché è un mondo nel quale ci ritroviamo completamente in piena soddisfazione di tutte le nostre esigenze interiori. Comunichiamo, vediamo le persone, ammazziamo l'usura da distanza rispetto a quello che abbiamo e soprattutto ci appaghiamo molte volte del consenso degli altri, costruito attraverso un'esposizione di noi stessi. Mi fermo ancora, poi Mauro Manca risponderà a queste telefonate. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Melog. 6 persone sono indagate dalla procura distrettuale di Messina con l'accusa di detenzione e divulgazione di materiale pornografico minorile online. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una mamma che nello smartphone della figlia adolescente ha scoperto diverse sessioni di chat effettuate con singoli utenti con scambio di foto e video di minori nudi in pose erotiche. Il cellulare è stato consegnato alla polizia che pian piano ha ricostruito le dinamiche d'adescamento e identificato le persone coinvolte. Oltre ai 6 indagati maggiorenni, sono stati identificati anche alcuni minori segnalati alla procura per i minori. Questo è un episodio di cronaca di quelli più turpi, quelli che più mettono in allarme i genitori. I ragazzi che hanno un loro lecito istintivo normale bisogno di esprimersi anche attraverso l'affettività, la scoperta della sessualità, si trovano di fronte a un mondo molto più complesso da affrontare, proprio perché in questa loro esistenza parallela che ha descritto così bene la nostra ascoltatrice è facile trovare degli elementi di rischio maggiori rispetto a quelli che le generazioni precedenti vedevano descritti, come non parlare con gli sconosciuti, stare attento con chi esci. Oggi lo sconosciuto ti entra sotto mille forme, anche seducenti, nella parte più intima e profonda della tua emotività, che è l'oggetto telefono che hai in mano, con cui tu metti in gioco tutta la tua capacità di emozionarti, di soffrire, di godere, di gioire, di avere curiosità, con quella di altre persone che non conosci. Abbiamo in collegamento Mauro Manca, ricordo, psicologa clinica e psicoterapeuta, che è autrice di un libro che tocca proprio i punti più difficili da sondare per i genitori di questo rapporto difficile, questa triangolazione fra adulti, giovani e mediazione delle macchine di comunicazione digitale. Leggimi nel pensiero, un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi, Mondadori, un libro molto interessante, ci sono delle storie vere anche sotto una forma narrativa apparentemente di romanzo, ma sono storie vere. Allora, Mauro Manca, abbiamo lambito vari punti di vista del nostro ascoltatore. A me ha colpito in particolare l'ultima ascoltatrice, che ha detto: noi ci fondiamo ancora su dei caposaldi di passaggio dell'esperienza generazionale, che sono la scuola e la famiglia, ma non ci prendiamo in giro, non esiste più questa roba qua. C'è un abisso temporale ormai tra le due generazioni, e Sara, l'ascoltatrice, ha toccato un aspetto secondo me di cui stiamo parlando ancora troppo poco. Ha notato quanto anche pochi anni tra una figlia e l'altra figlia comportino una differenza generazionale anche nel modo di pensare, nel modo di approcciarsi. Significa che l'evoluzione, il cambiamento è estremamente repentino, e questa è la difficoltà più grande dei genitori, perché a volte si trovano dei figli più piccoli, dei figli più grandi che ragionano e si comportano in maniera completamente differente, perché anche l'invasione della tecnologia da parte dell'uno e dell'altro ha cambiato il processo appunto di pensiero. Mi confermi, Barbara, che oggi un quindicenne e un ventenne sono un abisso proprio, ma veramente sembra sono passate 4 generazioni fra un ventenne e un quindicenne. Non siamo pronti però a questo cambiamento repentino, ed è lì che stanno emergendo la maggior parte dei problemi, perché a livello cognitivo, cioè per tutte le strutture, quelle anche del pensiero, riusciamo ad adattarci, ma a livello emotivo no. E la ragione l'ascoltatrice quando dice che in questo momento non c'è bisogno di amici o di egoismo o di quant'altro, perché se non si riesce a stare dietro ai tempi a livello emotivo servono ancora più pilastri, servono ancora più punti fermi, perché nella rete i punti fermi non esistono. Allora noi li dobbiamo contrastare non con un muro, ma con la stabilità. perché la caratteristica del digitale è proprio la ridondanza, è proprio il catturarli per tutte le caratteristiche insite degli servizi che offre. I videogiochi oggi sono diventati un servizio, prima erano un prodotto, è questo quello che noi non vogliamo capire, che non è più un mondo parallelo, perché finché utilizzavamo prodotti era un mondo parallelo, quando adesso sono servizi significa che è la nostra realtà. Se noi capiamo questo, riusciamo a contenerli senza dover fare, è 3 anni e mezzo, io sorrido e non voglio creare ansia nei miei genitori, ma non è anticipare. 3 anni e mezzo i bambini usano già la tecnologia, è un dato reale e quindi non è anticipare, noi dobbiamo anticipare fin da quando sono nati anche con gli esempi e con i comportamenti dei genitori. Scusa Maura, quando tu hai detto non è un mondo parallelo, allude al fatto che forse diventa il luogo principale in cui uno ci si esprime, si matura, si relaziona, fa la sua esperienza ormai? È il mondo, è il loro mondo. È questo quello, io quando sto a contatto con loro e sto con tutte le generazioni, dai bambini agli adolescenti, per loro non c'è un utilizzare un qualcosa come per noi, per loro è il mondo, è la realtà, ecco perché noi troviamo che ogni tipo di azione, di comportamento loro la veicolano attraverso il digitale e noi da fuori rimaniamo sconvolti, come mai ti comporti in questo modo e come mai lo fai, perché non c'è un pensiero del utilizzo il digitale, c'è un automatismo. Quindi siamo noi le ombre sulla loro caverna, diciamo che è la loro percezione concreta, non siamo noi la realtà, noi siamo soltanto un'immagine riflessa di qualcosa che non appartiene più alla loro esperienza. Se è così basta prenderne atto, sarà doloroso, faticoso e difficile, ma bisogna prenderne atto che il mondo è cambiato, è antropologicamente cambiato. Sì, questa è la verità, hai colto perfettamente nel segno e se noi non capiamo questo non riusciremo mai a ripristinare e a colmare quel solco tra le generazioni, perché è qui il vero problema, l'accettare che il cambiamento è continuamente in atto. Quando io parlo di flessibilità mentale è che è un cambiamento veloce, rapido, i servizi cambiano mese dopo mese e noi ci dobbiamo riadattare, per cui adesso iniziano anche a pensare per noi. Questo è quello che dobbiamo iniziare a capire, perché se abbiamo i mezzi che pensano anche per noi, noi inizieremo a pensare in maniera diversa rispetto anche a un anno fa. Quindi tornando al problema in cui abbiamo aperto, è un po' da parte nostra irreale pensare con delle sanzioni, delle multe, dei divieti, poliziotti per strada, riusciremmo in qualche maniera a far capire a questi ragazzi che forse è meglio che non si portano l'infezione che a loro probabilmente fa meno male che alle altre generazioni dentro casa può essere nociva. Bisognerebbe qualcuno di loro che arrivi a percepire, allucinare e sedimentare questa realtà e diffonderla attraverso i mezzi che hanno loro di convincimento, la stessa maniera che c'è una nuova app che fa cose che altre non facevano prima. Sì, dobbiamo parlare il loro linguaggio, quando si parla il loro linguaggio loro comprendono, altrimenti se si parla con critica, con giudizio e con repressione difficilmente i numeri parlano chiaro, perché aumentano e non diminuiscono, saremo efficaci. Grazie Maura Manca, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e molti che hanno telefonato che in questo momento hanno fatto proprio in tempo a sentire, ma mi sembra che era preferibile ascoltare il giudizio della dottoressa Maura Manca, che questo mondo lo vede da vicino e lo conosce di persona giorno per giorno. Alla prossima. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.